lo stesso modello utilizzato un po' dalle brigate volontarie per l'emergenza di Milano e da altre brigate di solidarietà attive in altre città. E nell'ultimo anno, da quando, anno e mezzo, da quando siamo nati, il nostro operato si è concretizzato principalmente nel sostegno alle persone più deboli, più colpite dalla pandemia, prima per ragioni di salute confinate in casa, quindi abbiamo sostanzialmente portato loro la spesa per permettere loro di non dover uscire. E senza troppi passaggi burocratici come gruppi siamo riusciti un po' a canalizzare le energie. Siccome l'adesione da parte di volontari esterni a supporto attivo ma anche agli altri gruppi che hanno fatto parte di questo specie di coordinamento improvvisato quotidiano sono veramente quasi 200 stando al gruppo Telegram, questo ci parla di una grossa volontà di attivarsi su progetti che coinvolgano la solidarietà attiva, concreta, dal basso, gratuita, ma orientata anche alla reciprocità, insomma, quindi molto spontanea, e ci suggeriscono anche che questa energia non deve essere dispersa e anzi deve essere in qualche modo convogliata. Per cui non so se posso parlare a nome di tutti, ma credo che il senso di questa assemblea sia principalmente di, a parte conoscerci ovviamente, scambiarci delle idee, ma capire qual è lo spirito che ci anima nel fare questo tipo di interventi, che immagino non sia semplicemente così di slancio caritatevole, ma che abbia magari delle ragioni più profonde, una visione magari un po' più sostanziale di quello che vuol dire operare solidarietà a chi ha più bisogno, nei confronti di chi ha più bisogno, e magari vedere cosa si può fare, se si può dare corpo in modo un po' più stabile, un po' più strutturato a questo coinvolgimento, e vedere come operare per il futuro, anche perché noi oggi siamo stati per giorno consecutivo a Blevio, abbiamo visto che le autorità che coordinano i lavori cominciano lentamente ad abbandonare i luoghi colpiti dalle frane, perché il loro lavoro per quello che riguarda l'emergenza comincia a essere esaurito, nel senso che comincia a declinare la situazione emergenziale, ma le persone continuano ad avere bisogno, e chiaramente bisogna anche ragionare se questo è l'intervento sulle frane, riteniamo essere una cosa che ci riguarda, che vogliamo fare, ma ha anche senso pianificare tutti insieme il come organizzare il lavoro e che prospettiva dargli, come dargli un valore di gruppo che opera insieme, insomma, non solo di persone che in queste circostanze si sono trovate ma poi tornano a disperdersi nuovamente. cui non so, magari qualcuno in Milano, visto che sono venuti fino a qua a parlare, per raccontare la prospettiva. Metto qua così non do le spalle. Ciao, innanzitutto piacere, sono Ivan delle Brigate, noi siamo qua diciamo dal primo giorno che si è attivata questa mobilitazione solidale, conoscevamo già le compagne e le compagne di supporto attivo, quindi diciamo, è venuto quasi naturale, spontaneo per noi attivarci e cercare di organizzare un supporto anche da Milano. Quello che vorrei fare in questo intervento, piuttosto che stare a parlare che cosa sono le brigate, penso che sia invece importante che magari mettiamo sul piatto una riflessione rispetto a qual è il senso, anche come diceva Gianluca verso fine intervento, il senso di queste cose che abbiamo fatto, che faremo, di questi interventi solidali, perché per noi non è, diciamo, non è la prima volta, ecco, non è un qualcosa che nasce in modo completamente spontaneo, ma ormai diciamo, abbiamo anche sviluppato un ragionamento rispetto a qual è il senso, appunto, il portato politico di questa esperienza e quali sono gli obiettivi e gli orizzonti che vorremmo perseguire. Noi appunto nasciamo con l'impiena emergenza Covid, no, a marzo 2020, c'è lo slancio immediato, da una spinta etica di dire bisogna fare qualcosa, bisogna attivarsi, dobbiamo aiutare la gente che rischia di restare indietro, che è in difficoltà, c'è bisogno di noi, siamo il popolo che aiuta il popolo, quindi un'attivazione anche di cuore, se vogliamo, che riguardava sia i compagni, sia decine, se non centinaia di persone che in realtà non avevano esperienza politica, non avevano dei vissuti politici pregressi, quindi era proprio una spinta molto spontanea. E questo secondo me è qualcosa di importante anzitutto, cioè il registrare questo dato che quando ci sono dei momenti di difficoltà, dei momenti emergenziali e le persone hanno voglia di aiutare le altre persone, di mettersi in gioco, di fare qualcosa per il prossimo in una società dove normalmente regna l'individualismo, la competizione, è già qualcosa di molto significativo e che occorre tenere in considerazione, perché noi crediamo che lì ci sia un potenziale anzitutto. Tra le persone che si mobilitano c'è un'energia che non va dispersa, anche come è stato scritto nell'appello a questa assemblea. Anche il fatto che nasca una rete di 200 persone nel giro di così poco tempo, secondo me è qualcosa che dovrebbe appunto farci ragionare sul fatto che in un momento di difficoltà ad aggregare persone intorno a movimenti, lotte sociali, invece qui c'è una facilità, no, di coinvolgere le altre persone. Quindi quello è sicuramente un primo elemento che a nostro avviso è molto importante e può anche avere un valore strategico di dire in un momento di crisi della militanza, dell'attivismo, dove per esempio a Milano vi racconto molti centri sociali da anni ormai sono più chiusi su se stessi, no? Fanno attività talvolta autoreferenziali, comunque c'è una difficoltà a mobilitare le persone. Questo tipo di esperienze riesce invece ad attivare le persone, a costruire delle reti ed è sicuramente qualcosa di interessante. Dall'altro lato il ragionamento che noi portiamo avanti è quello della presenza sui territori. Noi crediamo che avere questa capacità di intervenire in un momento di difficoltà, che poi può essere appunto un'emergenza come quella di questi giorni, no? Dovuta alla pioggia, comunque a un fenomeno così improvviso, che anche se col cambiamento climatico, lo sappiamo tutti, si andrà a reiterare questo tipo di fenomeni sempre più spesso, però ci sono decine di emergenze che sono la normalità, passatemi insomma la banalità dell'espressione, però è effettivamente così, cioè la povertà è qualcosa di endemico nei nostri territori, magari anche qua chiedevo prima chiacchierando con i compagni, mi dicevano sì, dietro la facciata, no, di una città che sta bene eccetera, in realtà si nascondono sacche di povertà di gente che fa difficoltà a sbarcare il lunario, arrivare a fine mese, e infatti sia noi sia supporto attivo, no, portiamo avanti dei programmi di sostegno alimentare per queste persone. Perché lo facciamo? Lo facciamo soltanto per aiutare le persone, per andare a mettere dei buchi nell'attività che dovrebbero fare le istituzioni, eccetera? Beh, in parte sì, lo facciamo perché comunque pensiamo che le persone vadano aiutate, che la nostra parte politica dovrebbe comunque stare vicino a chi soffre, cercare di alleviare quelle sofferenze, ma d'altro canto lo facciamo anche per altre ragioni. Ovviamente pensiamo che essere presenti in quei momenti di difficoltà, di riuscire ad andare a interagire con le varie composizioni sociali che soffrono la crisi, eccetera, sia qualcosa di importante per andare a costruire poi insieme una forma di possibile riscatto collettivo, di alternativa. Perché se ci limitiamo a evocare, no, la necessità di una lotta, di una trasformazione, ma poi non c'è un reale contatto, non c'è una reale vicinanza con le persone, questo è ovviamente risulta più difficile. Quindi per noi, crediamo, almeno quello che vediamo a Milano e quello che pensiamo sia possibile anche altrove, tra l'altro veniamo da un festival del Mutuo Soccorso che si è tenuto a Roma un mese fa circa, e si sono moltiplicate le esperienze simili a quelle, alle cose che facciamo noi, quindi è un qualcosa anche in espansione, perché il Covid ha sicuramente accelerato dei processi di impoverimento della società e c'è bisogno di questo tipo di esperienze. Noi crediamo che questo dia la possibilità di essere presenti nella società, di essere riconoscibili, di non essere autoreferenziali, di dimostrare che esiste un'opzione politica che può essere un riferimento per le persone che hanno bisogno. Quindi diciamo questa è l'altra faccia della medaglia. Poi credo sia importante anche affermare la necessità che le esperienze di mutuo soccorso che intervengono nelle emergenze, eccetera, devono sviluppare una capacità di interagire con le lotte sociali che ci sono in questo paese. Noi veniamo anche da una scuola di pensiero che non crediamo che il mutuo soccorso sia sufficiente, aiutare il prossimo sia la panacea di tutti i mali o basti quello. Crediamo che però ci possa essere l'innesco, no, anche di un processo per poi andare a interagire con le rivendicazioni delle persone, che crediamo che lotta e mutuo soccorso siano due facce della stessa medaglia. Da una parte, no, c'è l'aiuto, dall'altra c'è il sostegno a chi lotta. Questo è ancora tutto da sviluppare, ma crediamo che almeno la scommessa delle brigate volontarie per l'emergenza non è tanto quella di diventare un soggetto politico. Noi non rifiutiamo quella definizione, vogliamo essere un'infrastruttura che risponde alle esigenze materiali e si pone al servizio della popolazione, delle esperienze politiche che mirano a un riscatto sociale. Quindi direi che queste sono a grandi linee le ragioni per cui noi interveniamo. Il fatto di intervenire in un'emergenza immediata, come questa volta è stata un'alluvione o potrà domani essere un terremoto o situazioni simili, sia qualcosa di importante, perché a volte in questi momenti di intensità la percezione delle persone, pure ci sono diciamo pochi giorni che valgono come mesi. Se tu sei presente in un momento di estrema crisi riesci a costruire quello che magari ci metti più tempo. Quindi noi cercheremo anche di andare a sviluppare sempre più un'organizzazione dotata di strumenti materiali, capacità tecniche, organizzative, che sia capace di rispondere a questo tipo di bisogni. E siamo venuti qua ovviamente per dare un supporto e anche per fare rete concretamente con le altre realtà e esperienze che ci sono in Italia e in giro, a partire dalla nostra regione. E questo direi che è un po' il senso del nostro intervento. Sono un compagno di Como che comunque, vabbè, è di Via Basta Milano, Casa Rocca. Volevo chiedere una cosa. Vi conosco, voi so il lavoro che hanno fatto le brigate a Milano. A parte che bisogna anche fare un po' di differenza sulle brigate, perché sono quelle un po' più strutturate al comune, quelle un po' più libere, autonome. Io voglio però tirare fuori una questione. Il mutuo soccorso va bene, siamo tutti solidali, però non c'è il rischio di prendere il posto, cioè soprattutto fare quello che il comune, lo Stato dovrebbe fare? Cioè, a fare volontariato va bene, però non c'è il rischio che appunto volte fa il volontariato, però è quello che lo Stato, i comuni dovrebbero fare di suo e delega invece alle brigate questo onere. Assolutamente sì, questo rischio esiste, siamo perfettamente consapevoli che giochiamo anche sui margini di questa ambivalenza, però come dicevo prima, è ovvio che ci può essere, no, ti puoi diventare la sostituzione di quella cosa lì che dovrebbe essere garantita, che tutti in passato hanno lottato per avere determinati diritti che oggi stanno scomparendo. Però crediamo anche che se non ci fossimo stati noi ad aiutare quelle persone in quel momento, quelle persone rimangono abbandonate a loro stesse e ciò non c'è un'equazione matematica che significa che allora la gente inizia a lottare se rimane più povera, con meno mezzi materiali, eccetera. Anzi, crediamo il contrario. Crediamo che quanto più le persone vadano poi in uno stato di difficoltà estrema, tanto più ci sia pure una difficoltà ad andare a rivendicare i diritti, a lottare, a cercare di fare degli avanzamenti. Poi c'è anche un discorso di autonomia di classe, cioè se vogliamo andare a parlare, quando i proletari sono in difficoltà si auto-organizzano per far circolare risorse materiali per sostenersi a vicenda. Tutti i movimenti sociali nella storia dimostrano che hanno sempre sviluppato delle pratiche di auto-organizzazione per rispondere ai bisogni materiali. Quindi sì, la risposta è sicuramente c'è quel rischio e penso che per non cadere in quell'errore, farsi fagocitare, farsi cooptare, sia di tenere sempre aperte le porte alla lotta, avere sempre un'interazione con tutte quelle esperienze sociali. Non parlo dei collettivini che fanno il presidio, cioè parlo di movimenti sociali che reclamano in modo massivo i propri diritti, è lì che secondo me è un po' la chiave di volta, costruire un'infrastruttura di potenza materiale che ha la capacità di dialogare, di porsi al servizio delle esperienze di lotta. Ed è un processo di lungo corso. Cioè io credo che per giudicare questa cosa serviranno degli anni, forse le cose non vengono immediatamente. È una cosa che ha molto cambiato la percezione, l'esperienza delle brigate, eccetera. È che i processi sono lenti, hanno bisogno di tempo, le cose si devono sedimentare. E in Italia penso che la nostra parte politica abbia una carenza estrema di organizzazioni di materiali che riescano a sostentare le lotte, anche quando una lotta esplode. C'è poi difficoltà a darle corso. Forse le brigate e le esperienze di mutuo soccorso possono essere quell'ambiente solidale che anche garantisce la tenuta di determinati processi di rivendicazione. Solo pure non volevo monopolizzare, però assolutamente sì, in realtà la nostra ambizione come brigata, praticamente da subito, è quella di non stare chiusi su Milano, ma al contrario, di espanderci, di cercare di mettere in rete e dotandosi anche di quegli strumenti tecnici che poi consentono una circolazione di risorse, di idee. Tipo già nell'aria, con alcune esperienze, come per esempio nelle Marche, per l'emergenza Marche, poi con i compagni di Piacenza e altre città. C'è l'idea in cantiere di andare a costruire un ODV di secondo livello, che in pratica è un insieme di associazioni che serve poi appunto a, ad andare a distribuire delle risorse. Quello riguarda l'aspetto legale, che secondo me è anche poco interessante per noi, lo dico a scanso di equivoci, cioè la forma legale è una, non è qualcosa in cui crediamo, lo utilizziamo solo a fini puramente strumentali, perché in alcune situazioni ti serve banalmente per avere più agibilità, per avere più mezzi, ed è un qualcosa che devi avere, ma non è per niente quello, cioè non rispecchia quello che siamo. Io penso che un po' la risposta alla tua domanda sia anzitutto di incontrarsi sulla pratica. Noi siamo venuti qua, no, anche per lavorare insieme a voi, perché crediamo che facendo le cose si stabiliscono anche quei legami di fiducia che poi sono necessari per andare a poter implementare delle idee, che, perché le idee da sole non bastano. E credo che sia proprio, hai toccato un punto centrale, perché la nostra ambizione è quella di andare a costruire un'organizzazione che, a differenza di tutte delle varie realtà, diciamo, di compagni del nostro mondo che ci sono adesso, a parte alcune eccezioni virtuose, sono scarse nell'organizzazione. Noi crediamo molto nel valore dell'organizzazione al fine di andare ad accrescere la potenza collettiva, di riuscire, no, a fare circolare le buone pratiche, le risorse. Non lo so se c'è una città che riesce a raccogliere più mezzi, eccetera. C'è poi un'altra che invece ha più difficoltà, lì a quel punto uno può intervenire in sostegno dell'altro, no? Esiste anche una mobilità delle lotte del mutuo soccorso, e credo che sia qualcosa che assolutamente vada esplorato. Noi insomma siamo qua per questo, e cioè, siamo venuti anche per provare a interagire con voi, come a livello di compagni che si organizzano, e dire ok, ma possiamo organizzarci ancora di più, ancora meglio, su scala più grande, dandoci forza l'uno con l'altro. Anche le brigate a Milano sono nate un po' con quello spirito, quindi la direzione è sicuramente quella. Ciao a tutti, nasce come società studentesca, l'acronimo sta per Unione degli Studenti, e nulla, un po' come Brigate Volontari Supportativo, ci occupiamo di per lo più attivismo, e siamo stati coinvolti comunque per aiutare a Blevio e comuni limitrofi per l'emergenza, e nulla, dai. E allora siamo di UDS, io e Diego, piacere a tutti. Non hai scritto questi, inclusi non vale. Da stamattina. Non ho letto. Dopo, vabbè, siamo in UDS, c'è anche Chiara. E nulla, siamo una studentessa che si occupa di attivismo. Si sentono? Sì. Okay. Allora. Ciao a tutti. Siamo di UDS. Che si occupa di attivismo di Pietro Comasco, che sarebbe in teoria una specie di sindacato studentesco, e nulla, basta. Siamo tutti coinvolti con supporto attivo e brigate volontarie per l'aiuto dei comuni colpiti dall'alluvione, e basta. Allora, la collaborazione con supporto attivo è iniziata soprattutto qualche mese fa, però si è un attimo intensificata durante il periodo dello sfratto subito da supporto attivo. Le forze sono state unite soprattutto in visione del tentativo di cercare un nuovo spazio per supporto. Allora, la prima domanda che uno si pone nel momento in cui diciamo siamo di UDS è: cosa ci fate qua? Essendo un sindacato studentesco, abbiamo ritenuto che comunque fosse importante, per quanto comunque UDS sia un'organizzazione di ampio respiro comunque anche a livello nazionale, essere presente anche sul territorio. Da parte nostra siamo rimasti tutti piacevolmente, come dire, sorpresi, non ci aspettavamo così tanta partecipazione, soprattutto nell'ambito giovanile. Volevamo ringraziare prima di tutto tutti, chi è venuto, chi non è venuto, chi è qua, per aver partecipato all'iniziativa, e ci auguriamo che possa proseguire in una prospettiva sempre più sinergia e collaborativa al momento. Esiste sul dizionario. E nulla, siamo venuti qua semplicemente per esprimere il nostro supporto e la nostra il nostro, come dire, benestare a questa idea e, come dire, siamo qua per qualunque cosa, contattateci, chiamateci, siamo qui. Quando parli dell'essere vicino alle persone, di andare ad aiutare in un momento di emergenza, sicuramente è utile. Volevo portare sul piatto questo. Da sempre i cambiamenti sono stati voluti comunque da persone di un certo ceto sociale. Stato. Sarebbe interessante, anche visto quello che è successo con la sindemia, cioè il fatto che inizialmente si era tutti vicini, si cantava tutti sui balconi, si stava insieme più forte di prima, poi dopo un mese, 10 giorni, non so quanto è stato, è scaturito invece il risultato opposto, ci si dava un po' tutti addosso fino a quello che è venuto oggi. Lo stesso sarebbe interessante magari riuscire a coinvolgere quelle persone che subiscono, so che probabilmente io sono stato su solo una volta, in realtà è quello che è stato fatto, perché mi hanno detto gli abitanti di lì insieme ai vari volontari con cui ho potuto parlare che all'inizio c'era molto aiuto. Quando sono arrivato io c'è stato un episodio un po' sconveniente, però sarebbe forse interessante lavorare su questo punto qua, non lasciare sempre che siano le persone che se lo possono permettere di aiutare, ma che ci sia lo spazio, anche se minimo. Poi parlando con loro, questo ragionamento l'avevo già fatto, però sarebbe importante secondo me metterci un po' la testa. E una domanda invece rispetto a quello che avevi detto, hai parlato di essere vicino, presenza sul territorio, tutto interessante, hai parlato di riscatto sociale, c'è già un'idea in che modo operare verso un riscatto sociale? Le strutture che si stanno organizzando sono pensate anche in questo orizzonte, o è un, come dire, è un obiettivo però non è ancora stato delimitato, pensato, prefissato, non so come preferisci. Come la prima cosa che dicevi, secondo me, cioè, sono d'accordo, è fondamentale, cioè un po' il principio anche del mutuo aiuto. Penso che il principio del mutuo aiuto sia esattamente la reciprocità, no? Quindi io do qualcosa per te, tu dai qualcosa per me, ed è uno scambio dove appunto cresciamo entrambi la nostra potenza, ed è chiaro che però in certi momenti, quando uno è in difficoltà e non ha niente, magari è lui il momento che riceve, e poi quando restituisce, tra virgolette, non è che è quell'esatto momento. Però uno degli orizzonti che noi ci poniamo per la nostra azione è un coinvolgimento attivo, per esempio, dei beneficiari, di chi riceve il pacco alimentare, di creare proprio delle reti dove la persona non è un utente. Noi ci rifiutiamo di chiamare utente una persona che usufruisce di un servizio, ma per noi non è una persona, cioè una persona che è come me, come lei, come te, che ora magari in un momento di difficoltà, ma l'idea è esattamente quella di costruire dei livelli, no, di parità tra le persone, dove appunto ci sono delle responsabilità reciproche, dove quindi se di aiutarsi reciprocamente, appunto. Sul secondo punto, cioè, no, non abbiamo un piano, cioè io mi auguro con tutto il mio cuore che ci sia un riscatto sociale, che noi come non solo le brigate volontari per l'emergenza, il soggetto politico che può porsi alla testa di un movimento per il riscatto sociale. Noi siamo un'infrastruttura che sostiene le esperienze politiche che lottano, le esperienze politiche o sociali, movimenti che lottano per migliorare le condizioni delle persone oggi. Quindi questi vanno da movimenti completamente auto-organizzati a sindacati combattivi dentro i vari settori, penso per esempio al Sicobas, a esperienze simili, e credo che il nostro ruolo è quello di supportare queste esperienze, di diffondere una cultura partigiana che crei quell'ambiente solidale perché poi le lotte possano andare avanti e tenere. Però le brigate non sono un partito che detta la linea, non sono un soggetto politico alla testa di un movimento. Questo è anche una discussione interna che abbiamo avuto, perché c'è le anime, appunto, essendo una rete di 1000 volontari, 1000 teste pensanti a Milano, cioè ci siamo dovuti anche chiarire le idee su cosa siamo, qual è la nostra funzione, il nostro scopo. Noi crediamo che le pratiche di mutuo soccorso siano l'infrastruttura, le strutture siano qualcosa di diverso. Per essere... Ti faccio la domanda in modo diverso. Nessuno deve intervenire. Quello l'hai detto ed è stato chiaro che non c'è l'intenzione di diventare un progetto politico, ma nel lavoro che fate pensate di mettere delle basi, dato che tu hai parlato delle scatole sociali, queste parole sue, cioè pensate di mettere delle basi, parlo per Milano in questo caso riferito a te, pensate di mettere delle basi perché poi si possa rivendicare un riscatto sociale, e quindi in questo caso quali metodi state utilizzando? No, allora la risposta allora così, cioè assolutamente sì, cioè quello è proprio anzi l'ambizione, lo scopo delle brigate è esattamente quello, porre delle basi per far sì che poi dei movimenti possano costruire su quelle basi, utilizzarle, usufruirne. I metodi che utilizziamo sono quello di cui parlavo prima, quindi della vicinanza anzitutto con le persone in difficoltà, in particolare con i proletari e le proletarie che abitano. L'altro metodo che utilizziamo, che cioè stiamo cercando di sviluppare, è quello di creare dei contesti sociali attraversabili, quindi esperienze comunitarie. Uno dei modelli a cui ci rifacciamo spesso sono per esempio le case del popolo, no? Che è una tradizione del mutuo soccorso, leghe operaie, contadine fino all'Ottocento, inizio Novecento, erano un po' il caposaldo dell'azione politica. Là sapevi che trovavi dei luoghi che erano dei porti sicuri per i proletari, le persone potevano andare là, là trovavano degli spazi dove circolavano determinati valori. Un altro aspetto fondamentale in cui crediamo molto e su quale siamo molto indietro ma vogliamo lavorarci, è quello della formazione, della diffusione appunto di una cultura partigiana che faccia un po' da contraltare, no, alla cultura dominante che c'è oggi. Noi crediamo sia fondamentale creare dei centri dove si possa trasmettere dei valori che siano diversi, altri da quelli dominanti che ci insegnano a scuola, che arrivano normalmente insomma, nella società. Quindi l'idea è, per il futuro a Milano ci stiamo organizzando per andare a costruire dei contesti sociali che siano attraversabili, dove le persone possano trovare dei luoghi sia ricreativi sia di risposta ai bisogni materiali, che però siano connotati politicamente. Cioè, per noi quello è fondamentale, perché sai che se vieni lì ok, prendi il pacco eccetera, oppure ti aiuto nell'emergenza, terremoto, alluvione, ma lo faccio perché credo in determinati valori, non perché voglio semplicemente aiutare tu pur le persone, che sicuramente c'è quella parte, ma per noi appunto sarà importante andare a creare un'identità che non sia autoreferenziale, ma che abbia proprio un senso, no, per il momento di trasmettere qualcosa alle persone con le quali interagiamo. Per noi questo è un po' il senso delle brigate, e crediamo delle esperienze di mutuo soccorso. Quindi se porre delle basi politiche in questo senso, assolutamente sì, la risposta è la nostra ambizione, è esattamente quella, creare un terreno fertile per le lotte sociali e le possibilità di trasformazione, sapendo che non lo andremo a fare da soli, né lo vogliamo fare da soli. Che ci sarà bisogno di movimenti, di organizzazioni politiche con i quali noi abbiamo tutto l'entusiasmo e la voglia di andare a interagire. Pensavo che si può magari cercare di mettere insieme tutte le considerazioni e rispondere magari un po' ai dubbi e alle domande, cercando di dare concretezza al resto di questa assemblea, incentrandola sull'azione concreta di questi giorni. Cioè, giustamente vengono fuori domande sul senso di fare di costruire reti di mutualismo, gruppi di solidarietà attiva dal basso, popolare, appunto emergono anche considerazioni sui rischi che questa cosa si declini in senso assistenzialistico e vada a sostituirsi invece a vada a tappare i buchi a delle mancanze strutturali, facendolo peraltro male perché lo facciamo con i nostri pochi mezzi. Oppure appunto si dice ok, ma il mutualismo ha senso se serve a creare appunto un'infrastruttura in grado di dare voce, potere, materialità a quelle che sono già le vertenze delle persone. Allora, probabilmente ci sono diversi modi di intendere il mutualismo. Uno è appunto quello inteso che lo fa coincidere con la carità, la solidarietà, che è il semplice andare a pulire case, che è molto importante, ma finisce lì. Mi pare di capire che noi vogliamo farne un'altra cosa e rendere una cosa, rendere insomma la solidarietà veramente reciproca, e quindi fare in modo che sia l'occasione perché le persone si mettano in rete in modo orizzontale, paritario, e ne traggano giovamento. Insomma, in questo modo il tutto è più della somma delle parti, quindi le persone sono in grado di avere più potere e non sono isolate. Allora, forse può essere l'occasione per ragionare su come decliniamo questa cosa nell'occasione della frana, cioè se prima si è detto che il mutualismo ha senso quando viene messo al servizio delle lotte. Immagino, posso immaginarmi, pensando anche al mutualismo storico, delle vertenze sindacali oppure delle lotte, non so, delle istanze che vengono fuori in contesti urbani. In questo caso c'è più che altro un bisogno espresso solo indirettamente da parte delle persone, cioè c'è gente che si è trovata il fango in casa e probabilmente ha perso gran parte della casa, se non addirittura il tetto che aveva sopra la testa. Quindi non c'è ancora espressa in modo unitario, con una sola voce, una rivendicazione da parte di queste persone. Quindi in questo caso bisogna interrogarsi su in che modo un coordinamento di mutuo aiuto può essere messo al servizio di un bisogno di queste persone che non è ancora espresso in modo coerente e chiaro. Forse può essere l'occasione per farlo venire fuori, per aiutare a canalizzarlo entro una rivendicazione unica, cioè utilizzare il nostro intervento per capire di cosa le persone hanno bisogno, che non possiamo dargli noi nell'immediatezza e nemmeno le istituzioni, che siano meno carenti, riescono a dargli, e vedere in che modo questa richiesta può essere agita, cioè possiamo, in che modo possiamo dare alle persone la struttura organizzativa, anche solo essendo presenti in tante persone come gruppo, perché queste loro richieste vengano fatte sentire. Un primo modo in cui lo stiamo facendo è banalmente utilizzare l'occasione in cui andiamo a casa delle persone a spalare il fango e ascoltarle, perché noi siamo andati armati, oltre che di pala, piccone e stivali, di buona volontà, ma sapendo ben poco. Ascoltando le persone viene fuori che quello che è successo i residenti ce lo hanno ben chiaro, tanto quanto come dire, esperti, gli ingegneri che hanno fatto, o i geologi o le altre figure come dire, tecniche che hanno fatto le valutazioni di questi giorni. Magari vanno presenti in termini diversi, ma conoscendo la montagna sanno benissimo che cosa è successo, che cosa eventualmente è mancato nella misura in cui questa frana poteva essere evitata, e quindi che cosa, a quale tipo di bisogno insoddisfatto le persone hanno, insomma, quale tipo di bisogno è rimasto insoddisfatto. Allora in questo caso è già un principio di messa a frutto del mutualismo, nella misura in cui appunto capiamo di cosa le persone hanno bisogno. Questo è chiaramente contare fino a due. L'altra metà del lavoro è capire in che modo questa roba qua non è semplicemente un aver ascoltato così una lamentela a posteriori quando ormai i buoi sono scappati, ma fare in modo che innanzitutto chiaramente in futuro non si ripeta, ma fare in modo che poi queste persone possano riprendere una vita ordinaria in sicurezza, in cui appunto i loro bisogni ordinari trovino risposta da parte di chi di dovere. Questa è una domanda che dovremmo farci, cioè che cosa possiamo fare noi come volontari e volontarie che vanno a spalare il fango per fare in modo che le persone non siano abbandonate alla mercé di una frana che forse poteva essere evitata, forse no, sono tutte considerazioni da fare, ma sicuramente insomma ci sono delle valutazioni da fare, e questo è forse il tema da porsi per il futuro, se vogliamo dare continuità ai gruppi di lavoro che sono costituiti in questi giorni. Ma che danni ci sono gli Abletti? Come? Che danni ci sono? Quanti hanno perso la casa? Guarda, lo sa bene il nostro capocantiere. Qua quanti hanno perso la casa sinceramente non lo so, però sicuramente tutti quelli che hanno comunque sono stati colpiti dal fango, cioè che hanno avuto fango in casa, così hanno perso tutto quello che avevano, quasi tutto quello che avevano dentro. Ma c'era una casa che dovevano decidere se abbattere o no? Scusa? C'era una casa che era proprio in mezzo che dovevano decidere se abbattere o no, sai qualcosa? Alla fine, se non sbaglio, non, se è la stessa, quella capovico, teoricamente no. Alla fine hanno dato agibilità. Però anche quella, per esempio, all'inizio non davano agibilità né per entrare. Noi volontari né proprio il proprietario gli hanno vietato di vivere perché c'era il fango e la frana che spingeva da dietro la casa, chiaramente non davano agibilità neanche ad entrare. Però alla fine, a quanto pare, però cioè, meno male in realtà, sì, sti controlli vengono fatti e tutto quanto, ma non capisco in che misura. Perché alla fine, per esempio, cioè, oggi abbiamo lavorato comunque, cioè, abbiamo lavorato comunque in un posto in cui, diciamo che il giorno prima ti dicono che non ha agibilità, ci lavori sotto, il giorno dopo ci vai e trovi un soffitto staccato. Quindi comunque non si capisce bene. Esatto, però alla fine meno male comunque i lavori, diciamo, tra virgolette. Ma poi ci sarebbe da mettere a fuoco quell'uno più uno, quali sono le tematiche per aiutare queste persone. Posso sollevare una questione che ho, che sinceramente non ci avevo neanche pensato, però l'ho notata oggi in particolare parlando con alcuni operatori della protezione civile, l'aspetto psicologico. Effettivamente non c'è stata, se non in ritardo, dopo una settimana e passa, assistenza dal punto di vista emotivo, più mentale alle famiglie, perché comunque ci sono obiettivamente delle problematiche dal punto di vista strutturale per quanto riguarda appunto gente che perde la casa, fango, merda di ogni tipo, però queste persone hanno bisogno di supporto e deve essere disponibile anche dal punto di vista psicologico. Aspetto. Siamo quasi. Vabbè, urla un po'. No, dicevo, infatti si ricollega al discorso che stava facendo prima lui sul fatto che il supporto, oltre che materiale, deve essere frutto appunto di una rete in cui io ti do, tu mi dai. Però questo mutualismo si può costruire solo tramite il contatto umano, il supporto anche dal punto di vista appunto umano. La cosa che mi ha colpito di supporto attivo quando mi ci sono approcciata all'inizio per conto di DS è stato proprio, correggetemi voi di supporto attivo se sbaglio, il loro, come dire, motto: non pensare a quello che, aiutami, non pensare a quello che supporto attivo può fare per te, ma quello che tu puoi fare per supporto attivo. Questo è proprio rappresentativo di come uno debba ragionarlo, non proprio come un dispensare passivo di, non lo so, necessità materiale eccetera eccetera, ma proprio anche dal punto di vista più personale anche, deve essere preso a cuore. Vai. Sulle case che devono essere abbattute, così, noi all'inizio l'abbiamo incontrato come Croce Rossina, che poi dopo, quando hanno la Croce Rossa ha finito l'emergenza, è rimasto comunque come volontario, anche perché fa parte di praticamente. E lui comunque, avendo più informazioni, mi ha detto che saranno tipo 4-5 le case da abbattere effettivamente, in cui non si potrebbe vivere. Però sono, secondo me, quelle sulla strada, quelle proprio distrutte, con il corso d'acqua. No, purtroppo saranno le case quelle che la prima principale sulla Sepale, quelle sopra la villa, alcune vanno sopra, quelle sopra la villa vanno di giù, due case. Di quelle che abbiamo svuotato? No, dicevo che a sopra villa ricordiamo le due proprietà. Abbiamo una casa del nostro caro signore, quella proprio che è stata colpita, e quella lì verrà probabilmente demolita. Sarà demolita? Una piccola parte dei Bosmani. Ah beh, la piccola, il garage sì. Cioè, il garage e anche la parte sotto. La parte sotto. Quella che abbiamo pulito questi giorni. E poi dopo la parte quella... Il garage. Ah, okay. Il garage e la parte sotto sarà demolita. Personalmente non sono medico, però avere comunque accanto un team di 10 dottori, infermieri, OSS che ci insegnavano come accogliere le persone e soprattutto come preservarci da possibile contagio, ma anche dalle storie che poi ci raccontavano queste persone, ci ha aiutato tanto. In questo tipo di interventi non siamo stati abbastanza, secondo me, sul pezzo nel riuscire a coinvolgere più personale sanitario. Poi comunque Croce Rossa era lì e comunque questo sostegno c'era, però quanto più riusciamo a coinvolgere anche queste persone all'interno dei nostri gruppi, tanto più siamo avvantaggiati, insomma. Sulla questione del sostegno psicologico, comunque, cioè, almeno io parlo per supporto attivo, ne faccio parte e quant'altro, parlo per supporto attivo, però comunque almeno noi dal primo giorno in cui siamo andati, diciamo tra virgolette, a spalar fango, non abbiamo mai fatto solo quello. Cioè, almeno io per esempio il primo giorno che abbiamo iniziato a comunque lavorare nella casa del Guzmani, uno dei primi, quello in cui abbiamo svuotato tutto il piano, il primo piano, io sono stato praticamente tutta la giornata probabilmente dietro alla signora, la signora Elke, si chiama Elke, tedesca, e sono rimasto tutto il giorno con lei. La mattina abbiamo tirato insieme fuori dall'armadio tutte le cose salvabili, poi pian piano comunque cerchi sempre, cioè in una situazione del genere posso capire benissimo il, tra virgolette, il loro stato d'animo in cui sono molto confusi. E per esempio molte cose arrivavi, gli chiedevi, te lo lasciamo, lo mettiamo da parte, no no, butta, loro cercavano, diciamo, di liberarsi dalle cose, probabilmente anche per liberarsi dalla paura, dal dolore, dall'ansia, quello che hanno passato, no? Però comunque tu cerchi, tra virgolette, di stargli a fianco, magari lo metti da parte, poi glielo lavi dal fango, eh? Lo vedono loro in una situazione magari diversa il giorno dopo, che hanno magari calmato un attimo le acque, e magari ti dicono va bene, capito? Quindi comunque bene o male cerchi sempre in un modo o nell'altro non solo di andare a spalar fango, come ho detto prima, ma anche di portare un supporto psicologico in qualche modo. Anche per esempio il giorno in cui davano piogge forti, alla fine non siamo andati a lavorare, cos'era, mercoledì pomeriggio, comunque abbiamo cercato, diciamo, sempre di stare a fianco comunque alle persone colpite, o comunque ai paesani, comunque siamo andati lì da loro, abbiamo fatto un giro, abbiamo parlato con loro, abbiamo visto comunque anche la situazione, come stava andando con le piogge forti che c'erano, e niente, in un modo o nell'altro, tra virgolette, anche non avendo comunque un qualche specialista o altro, cerchi sempre in qualche modo di aiutare le persone colpite, no? Magari non solo a Blevio, cioè magari il primo si può fare